La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci alla rosa purpurea, puntata che proprio in mezzo ai ponti di fine aprile, tra Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, momento in cui festività ce ne sono tante, cinema ce n'è ancora di più, sono una dozzina i film nuovi che arrivano in sala in questo fine settimana e soprattutto, come avevamo forse facilmente preventivato la settimana scorsa, c'è un nuovo padrone del box office che è Fast and Furious 8, che ancora da giocare qualche carta in questo fine settimana, anzi direi anche per tutti i prossimi weekend, è già arrivato a essere, pensate, il settimo, ottavo incasso della stagione, ma niente lo troveremo alla fine del weekend in terza posizione. Parlo di incasso dal primo di gennaio, insomma sta andando avanti a gonfie vele, l'avevamo detto, il film si può anche criticare, ma sono quei film che hanno una tale attesa, una tale aspettativa, un tale pubblico già pronto, che ormai diciamo così la leadership del box office è cambiata. Probabilmente non cambierà questa settimana, perché come dicevo i film nuovi sono tanti, però quelli che possono fare davvero breccia al botteghino non tantissimi, anche se qualche blockbuster c'è, se qualche film d'animazione piuttosto atteso c'è, e chiaramente ne parleremo. Noi però vogliamo cominciare questa puntata con un film, come dire, particolare, un film che ha nel cast un attore di grande richiamo come Woody Harrelson, che ha però una storia molto, molto ruvida, molto amara, quella di un uomo di mezza età, vicino alla misantropia, nevrotico, ma anche molto divertente, che a un certo punto capisce, scopre di avere una figlia della cui esistenza manco sospettava. Il film si intitola Wilson. Mia moglie mi ha lasciato 17 anni fa. Devo andare avanti, vedere una persona nuova, non te necessariamente. Sembra che la tua ex moglie abbia fatto adottare questa ragazza 17 anni fa. Sarò padre! That's life. Vuoi trascinarmi con te in questa assurda finta famiglia? Sapete, siete davvero bellissimi. And I can't deny it. E allora, questo è la clip che ci introduce dentro questo film Wilson, del quale parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, un film che arriva da un fumetto di Daniel Klaus, è quello che poi appunto generato questo film con Woody Harrelson. Stavolta i supereroi non c'entrano per niente, c'entra invece una storia che però ha avuto, diciamo così, già alcuni riferimenti archetipi nella storia del cinema, anche recente. Penso al Jack Nicholson, per esempio, che tutti ricordano, maniacale, no? In una delle sue interpretazioni più belle degli ultimi tempi. Ecco, questo Wilson come si colloca rispetto a quella cinematografia e rispetto al cinema nostro contemporaneo, a questa settimana di uscite? Il paragone con Jack Nicholson è calzante, perché Jack Nicholson sembra il fratello maggiore di questo personaggio che esce fuori da uno di quei fumetti meravigliosi che sono diventati il nuovo modo di raccontare la letteratura e la realtà, quelle graphic novel che non raccontano grandi eventi o grandi reportage, ma semplicemente la quotidianità, che hanno sostituito per molti versi i libri che da noi in Italia per esempio ritroviamo nella produzione di Gipi. Sembra il fratello maggiore perché ce lo vogliono vendere questo Woody Harrelson come un outcast, come un emarginato, come un sociopatico incapace di sopravvivere nella realtà. In verità, come quel Jack Nicholson, più che un sociopatico, più che un uomo affetto da una patologia, ha sicuramente delle manie, no? Ricordiamo quel Jack Nicholson che non riusciva a mettere i piedi sulle divisioni delle mattonelle sul pavimento stradale, unisce a delle malattie una profonda critica della società, e questo è qualcosa di straordinario in mano a un buon regista, a un buon sceneggiatore, perché chiaramente hai qualcuno che in sostanza è un grillo parlante nei confronti di una realtà quotidiana che è molto più scomoda di quella che ci vogliono presentare. In un mondo dove tutto sembra facilitato, invece c'è qualcuno che ci dimostra che così non è. Inoltre Wilson sembra fatto apposta per poter metterci scomodi rispetto alle nostre credenze, rispetto per esempio alla moderna credenza che forse farci una famiglia poi non è così necessario, Abbiamo tanti che sostengono appunto che no, essere padre o avere dei figli o sposarsi sia qualcosa di antiquato. Wilson è proprio uno di quelli, è un uomo, un misantropo che non sopporta di avere vicino nessuno, ma nel momento in cui si trova in una situazione particolare a poter avere una famiglia, a poterne farsene una nel modo più strano possibile, capisce che quella cosa non solo la vuole, ma gli è mancata fino a quel momento. Attraverso l'eccezionalità, attraverso la diversità, sembra un elogio della normalità, lo fa con grande eleganza, lo fa staccandosi un po' dal tipo di narrazione che c'era nel fumetto, che era più acida, più cattiva, e in qualche modo però anche più empatica. Qui c'è un Woody Harrelson che si prende sulle proprie spalle tutto il film, anche troppo forse, e che dimostra che è stato solo estremamente sfortunato in tutti questi anni, perché ha saltato tutta l'epopea commerciale degli 90. Nel 2000 non ha cavalcato abbastanza bene l'onda del cinema indipendente che ha reso grandi tanti peggiori di lui, ma qui ci dimostra sempre che è uno dei migliori attori della storia di Hollywood. Allora, dimmi fratello, hai ascoltato la buona novella? Oh, no, io... no, grazie. Dai, ti ho preso per il culo! A Gesù non gliene frega un cazzo! E allora, questo era Wilson, il film con cui abbiamo cominciato. Vale la pena dire, perché non l'abbiamo detto, che il film al quale facevamo riferimento con Jack Nicholson era Qualcosa è cambiato, del 1997, insomma, che vedeva il grande attore americano in questo ruolo appunto veramente misantropo, anche se appunto con ossessione, compulsione, come raccontava Boris Sollazzo. Dicevo prima dell'andamento del box office, va segnalato anche il buon andamento in parallelo delle due commedie italiane di cui abbiamo parlato settimana scorsa con ospiti i due protagonisti, Pierfrancesco Favino da una parte e Tony Servillo dall'altra, perché Moglie e marito sta macinando molto bene un secondo posto, lontano ovviamente dal Fast and Furious, ma comunque di grande tenuta, e così anche Lasciati andare, che è in terza posizione. Spero che non siano, come dire, obnubilate da quanti biglietti sta vendendo Fast and Furious, che sono tantissimi ovviamente, e poi il potenziale di spesa della gente si sa è quello, il pubblico magari si può dire non è lo stesso, sì, però se questa settimana vai a vedere quello, magari la prossima non sai se trovi ancora gli altri, e soprattutto spero che non si stiano, come dire, contendendo il pubblico fra di loro, due commedie italiane molto diverse, però, come dire, anche lì con un bacino che qualche aderenza ce l'ha sicuramente. Staremo a vedere. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo con un film francese, un film assolutamente d'autore, con protagonista Isabelle Huppert. Si intitola Le cose che verranno. Stazioni di servizio Constantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con un film, come vi abbiamo annunciato, che arriva dalla Francia come nazione di produzione, con Isabelle Huppert, André Marcon nel cast. La regia è di Mia Hansen-Love. Il film, che è il titolo originale L'Avenir, esce in Italia come Le cose che verranno. Quando l'ho conosciuta, vostra madre distribuiva volantini per il Partito Comunista. Ok, sono stata comunista. Per 3 anni mi devo vergognare. Ah, Fabien! Mi sono iscritto alla normale superiore grazie a te. È il suo prediletto, non lo sai? È il figlio che avrebbe voluto avere. Il mio esatto contrario, sia da un punto di vista fisico che intellettuale. Da quant'è che va avanti? Già da un po' di tempo. Una storia strana, particolare, quella di una donna ormai matura che si avvicina alla terza stagione della sua vita, a 55 anni, 2 figli, un marito, si chiama Nathalie, e una madre molto molto fragile, un'insegnante di filosofia, a sua volta autrice di testi di filosofia, e la filosofia impregna un pochino la sua vita, la riempie di interrogativi morali, una donna onesta, leale, un po' tutta ad un pezzo, la cui vita però a un certo punto vive uno scossone, forse anche un paio, perché da una parte il marito quella terza stagione la vuole affrontare con un'altra donna e forse anche con un sogno di gioventù ormai lontano, e dall'altra parte invece quella di un'attrazione che non diventa mai un'attrazione diciamo così, sentimentale, o forse questa situazione viene solo sfiorata, ma un'attrazione sicuramente intellettuale per un giovane, un ragazzo che le ricorda tantissimo lei da giovane, un ragazzo engagé, come dicono i francesi, impegnato, di sinistra, che vuole costruire un futuro diverso. E questa donna è in mezzo, come un po' in mezzo al mare, vascello che deve decidere quale strada prendere, quale onda seguire, se arrabbiarsi più di tanto per un marito che, come dire, sta andando via lontano, se invece magari prendersela per un editore che non vuol più pubblicare i suoi libri, per una madre è troppo oppressiva, insomma c'è il senso di inadeguatezza a stare al passo con i tempi, che è una cosa che richiede sempre più velocità. Boris, è un film particolare, molto di testa questo di Mia Hansen-Løve, poco di cuore forse, lei che ci aveva abituato ad atmosfere forse un po' più melò, un po' più sentimentali. Sì, verissimo, c'è da dire che se tu decidi di dare una parte di questo tipo, di donna in difficoltà, di donna piena di certezze che si rivela donna piena di dubbi, a una come Isabelle Huppert, è la glacialità quella a cui devi puntare, cioè è la cerebralità, ecco, forse la glacialità è troppo severo. È un film secondo me molto interessante perché è programmatico intellettualmente e cinematograficamente nel titolo, sia quello italiano sia quello francese, perché l'avvenir per una donna di 55 anni ha un che di ironico ma anche di straordinariamente potente e di filosofico, perché il futuro è di tutti, non solo di chi ne ha di più davanti, e forse la grande forza di questo film sta nel fatto che Mia Hansen-Løve ci dice quanto sia vasto il futuro anche di una donna che pensa di non averne più o pensa che glielo stiano rubando perché un uomo ha deciso di privarla anche di quello che è stato il suo passato. È molto interessante, abbiamo parlato a lungo noi dei grandi registi molto giovani che abbiamo incontrato in questa stagione. Ecco, Mia Hansen-Løve a 35 anni ha già fatto 5 film ed è già chiaro quanto sia importante la sua cinematografia all'interno del cinema francese ed europeo, ed è interessante perché a differenza degli altri film in cui cercava di raccontare la giovane età che sta tra l'adolescenza ad essere la giovane donna, qui affronta il tema della maturità. Non riesce però a non affrontarlo attraverso la gioventù, perché appunto forse il momento più caldo del film è proprio il momento in cui un giovane allievo brillante anarcoide di questa insegnante di filosofia la affascina, in qualche modo la completa nel modo che meno lei si aspetta. Ancora più interessante, e non è un caso secondo me che lo faccia una regista donna, è il percorso nuovo di Isabelle Huppert, che abbandona sempre di più questo status di attrice nevrotica per sposare quello di attrice problematica, ma alla ricerca di qualcosa di positivo, alla ricerca di vita, e non più come prima un'attrice piuttosto mortifera che guardava invece all'oscurità. Come abbiamo detto, forse è troppo poco di cuore e troppo cerebrale, non a caso in questa recensione ci siamo fatti più domande filosofiche di quante recensioni abbiamo fatto, e però è anche la sua forza, e credo che registe come Mia Hansen-Løve servono anche per questo e sono importanti perché, a differenza di altre registe coetanee come Valérie Zunzelli, non cerca la programmaticità di trame punitive, ma cerca invece realmente l'esercizio del dubbio insieme allo spettatore. Cosa ne pensi di questa giacca? Niente male, no? Dove l'hai trovata? È mia. Ma non te l'ho mai vista. Barbara Bui, ma stai scherzando, vero? Con quali soldi hai pagato? Hai fatto un altro assegno a vuoto? Ad ogni modo dovevo comprarmi qualcosa. Ho un ruolo da comparsa la settimana prossima. Ah sì? Che cos'è? È un poliziesco per la TV. Io devo fare una morta. E allora, le cose che verranno con Isabelle Huppert al cinema. Noi adesso ci prendiamo il primo spazio per giocare insieme. Come da tradizione alla Rosa Purpura, ogni settimana un film misterioso che dovete indovinare per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che vi aspettano. E qui siamo di fronte a uno dei film che hanno decisamente segnato la prima parte di questa stagione. Falliremo al 26%. Quanto manca? Non lo so, di sicuro di qua non sono mai passato, ma manca poco, lo so. Beh, adesso siamo al 35% di fallimento. Non lo voglio sapere, grazie. Posso capirlo. E allora qui non vi dico niente, perché qui dovete essere bravi voi, aver indovinato questo film, scriverci alla Rosa Purpurea @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo, per provare a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano, ma più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Cinema italiano con un film che ha come diciamo sfondo la Sardegna, anni 40, un titolo tratto da un libro di grande successo, si intitola La Cabadora. Io ne ho visti di uomini che morivano e non l'ho mai vista l'anima. Era santa di soffrire. Una fossa dove mi hanno seppellito fin da bambina. Che cos'è la Cabadora? È una figura importante nella cultura ancestrale sarda, quella di una donna che ha il compito di dare ai malati terminali la buona morte. Insomma, eutanasia fisica, diciamo così, ante litteram, molto presente appunto nella cultura sarda. Una buona morte che arriva colpendoli in un punto nevralgico della testa o con un cuscino. È una figura, badiamo bene, ricercata dalle famiglie che hanno un malato terminale in casa. Lo era almeno, ovviamente, parliamo di una cultura ancestrale, ma il film si ambienta nei primi anni 40 ed è frutto, sebbene non trasposizione scena per scena, quindi questo è importante dirlo, del romanzo di grande successo di Michela Murgia. Qui nel cast troviamo Isabella Donatella Finocchiaro che appunto a questo ruolo, una donna annetta che arriva a Cagliari negli anni 40 appunto alla ricerca di Tecla, di cui si è presa cura quando la madre della ragazza era morta. Sono però i momenti dei bombardamenti della guerra che devastano il capoluogo sardo e da lì Annetta si muoverà con quello che è il, chiamiamolo, il mestiere, ma forse ancora in più la missione che ha fra le mani. Boris, è un film, io quando ho visto il libro, mi ricordo qualche anno fa, lessi il libro, ho immediatamente pensato che questo libro doveva diventare un film. È un personaggio troppo forte, troppo archetipo, troppo noir, quello della Cabadora, troppo legato all'ancestralità per non finire sul grande schermo. E così è stato. Bene ha fatto, probabilmente in questo caso, Enrico Pau, di cui ricordiamo il bel Jimmy della Collina di qualche anno fa, bene ha fatto, dicevo, a staccarsi un po' dalla pagina scritta e a riportare un clima appunto di misticismo quasi all'interno di questo film. Beh, va detto sicuramente che rispetto al libro chiamato Il libro di Michela Murgia, non ritroverà Il libro di Michela Murgia, perché veramente il libro è un'ispirazione per un uomo, un regista, un intellettuale che fa il professore di liceo, che ha fatto tanto teatro e che è anche un ottimo regista di una terra come la Sardegna che ci ha regalato tanti bei film in questi ultimi anni. La forza di Enrico Pau sta proprio nell'aver capito lo spirito del film e di aver però cercato nel cinema una diversa forma espressiva, dando al film una potenza che in alcuni casi è addirittura fantasy e in altri è estremamente realista, perché la Cagliari punita dalla guerra varrebbe già da solo il prezzo del biglietto. Enrico Pau inoltre è forse tra i registi italiani quello che più riesce ad accarezzare l'animo femminile con una sensibilità unica. Penso a Donatella Finocchiaro, che era da tanto tempo che non aveva un ruolo che ne sottolineasse il talento drammatico, ma anche il talento interpretativo che riesce a scendere nelle sfumature di un personaggio molto complicato, perché la Cabadora è un ruolo sociale necessario all'interno di quella società rurale, di quella società che appunto aveva la sensibilità di far trovare una buona morte a chi soffriva, e allo stesso tempo però è una figura emarginata perché non viene accettata fino in fondo. Tutto questo fa sì che La Cabadora sia un film a mio parere molto speciale, perché è un film d'autore, è un film che gioca con i generi, quello bellico, un genere anche fantasy, un genere estremamente sociale, e allo stesso tempo però una fluidità di racconto e una capacità di regia, di visione che è fuori dal comune. Tutto questo dà a questo film qualcosa anche di più rispetto al libro, ma che forse era più rigido perché costretto all'interno delle pagine scritte, e che trova il suo pieno compimento, la sua piena realizzazione proprio nella forza delle immagini di Enrico Pao. Non voglio esagerare, ma secondo me in questa settimana il film più bello è proprio La Cabadora, anche se forse avrà qualche problema in più con il pubblico. L'hanno trovata a faccia in giù, ha un dito rotto. Meno male che il resto è sano. Mi passi la spazzola? Dal mio paese partivamo di notte a piedi per venire fino a qui alla sua festa. Santo Efesio, forse non ti vogliono far uscire quest'anno. Dopo 3 secoli. Ascoltami bene. Cagliari ha bisogno di te e tu devi uscire. La Cabadora, adesso lì nella regia, restate con noi perché fra poco sarà Famiglia all'improvviso e poi l'azione di Boston Caccia all'uomo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, commedia francese, commedia tenera, commedia che diventa anche diciamo quasi un film sentimentale, se il sentimento vale anche fra un padre e una figlia. È Famiglia all'improvviso, il titolo originale Ça commence demain, quindi si comincia domani, molto forse più poetico del nostro Famiglia all'improvviso, che racconta la storia di un ragazzone così, di quelli un po' scialli, come si dice fra i nostri giovani, no? Cioè quelli che non si prendono responsabilità, sono sempre un po' lontani dall'impegnarsi, ma fra le braccia del quale a un certo punto viene depositata una bambina della quale Samuel non serba qualsiasi ricordo, ma che è sua figlia. E sua figlia si chiama Gloria e improvvisamente Samuel deve capire come fare a diventare padre. Non mi riconosci, vero? Christine, l'anno scorso la barca, la caletta. Ah, ma sì, Christine di Berlino. Di Londra. Di Londra, certo, of course. Mi hai fatto una sorpresa. Sì. Con il tuo bambino. Però mi dispiace, ma non posso farti salire a bordo. Stavo sistemando e c'è un disastro. Lei si chiama Gloria. Gloria. Ed è carina, davvero. È tua figlia. Tua figlia? Tua figlia, Samuel. Lo so che è uno shock per te, ma è tua la bambina. E noi la ritroveremo dopo tanti anni, dopo 8 anni ancora, sua figlia, e ancora, anzi, più che mai legati. Devant tu commence era il titolo originale, più o meno le parole erano quelle, le avevo girate. E il protagonista è Omar Sy, che è uno dei volti ormai importanti della commedia francese dopo Quasi amici. Boris, mi sembra un film che ha chiaramente le caratteristiche di una mira molto popolare, che però riesce, grazie forse anche alla regia di Hugo Gélin, che è anche sceneggiatore del film, riesce a non uscire mai troppo, a non cadere mai troppo nello scontato, nel già detto, nel già visto, perché poi anche questa settimana è il secondo film in cui qualcuno scopre di avere un figlio che non sapeva di avere, e anche questa, se vogliamo, è un po' una sorta di matrice, no? del cinema contemporaneo, la paternità, la maternità trovate all'improvviso. Mi sembra che il rischio in questo caso venga abbastanza eluso. Assolutamente sì, e la cosa più curiosa è che viviamo in un cinema in cui grandi attori che diventano famosi per un ruolo spesso cercano di evitare di ripetere quel ruolo, e invece in questo caso Omar Sy riesce a raccontare la sua storia naturale, che nasce con quasi amici, di ragazzone, come dici tu, capace di vivere la propria vita in maniera spensierata, e che si ritrova invece di fronte a qualcosa di più grande di lui, e che in qualche modo riesce ad interpretarla in maniera molto naif, la sua profonda realizzazione, quasi sempre riuscendo in quasi tutti i suoi film a dargli sempre una sfumatura diversa. E quindi dice a molti attori che spesso non bisogna abbandonare il proprio ruolo di successo, ma bisogna sempre saperlo interpretare in maniera originale. In Famiglia all'improvviso forse lui riesce a tornare alle vette di Quasi amici, perché questo padre, che non solo non pensava mai di poter diventare padre, ma non lo voleva, non lo desiderava, era soddisfatto della sua vita, trova invece una piena realizzazione nella sua paternità. Bravo Hugo Chelin, il regista, nel sfruttare tutti i potenziali comici della paternità all'improvviso, a cui noi siamo abituati. Hollywood ci ha fatto un genere, ma in qualche modo anche poi la commedia europea, il cinema europeo, senza però eludere tutte le ruvidità, tutte le contraddizioni, tutte le difficoltà di questo nuovo ruolo. In questo senso il film, per quanto riguarda la sua scrittura, è davvero di altissimo profilo, perché è una commedia che fa ridere, ma che sa anche commuovere, che porta avanti questa doppia pista della paternità come elemento comico e come elemento drammatico con grande capacità, e va detto anche grazie al carisma, alla personalità di Omar Sy, che riesce a reggere benissimo entrambe le tonalità di interpretazione, e anche grazie a questa bimba, Gloria, che ha veramente una capacità di stare in scena fuori dal comune, vista l'età. Quindi in maniera superficiale si potrebbe definire semplicemente una commedia, e sicuramente come commedia ha delle potenzialità anche al box office enormi, perché è estremamente riuscita. Allo stesso tempo racconta un problema anche sociale di una paternità da single, perché poi questa madre che abbiamo sentito nella clip scomparirà, sarà anche oggetto di una ricerca iniziale, no? Di una sorta di thriller sentimentale in cui si cerca la via più facile, cioè la scorciatoia, per cui restituire la bambina alla propria madre è l'unica soluzione, fino invece a quello che vedremo 8 anni dopo, alla realizzazione di questa paternità. Credo che il cinema europeo abbia proprio bisogno di questo, qualcosa che il cinema hollywoodiano non è riuscito a realizzare pienamente. Il cinema hollywoodiano è sempre alla ricerca di un successo commerciale. In questo caso il successo commerciale, secondo me, si unisce anche alla capacità di essere autori pop, scrivere bene una commedia, di interpretarla bene, di dirigerla bene e di farla diventare anche qualcos'altro. Quindi La famiglia all'improvviso, che apparentemente fin dal suo manifesto può sembrare un film leggero su una cosa seria, diventa un film serio raccontato anche in maniera leggera, e questo secondo me lo rende il film migliore in questa settimana per andare tutti al cinema in famiglia, per imparare tutti qualcosa. Checkpoint 8:16, abbiamo ancora un minuto. Lacci. Dormito bene? Sì, ho preparato la colazione per Gloria. Mamma, non mangiamo qui la mattina? Ah. Sì, preferiamo dormire un po' di più e mangiare qualcosa andando a scuola. Ah. Checkpoint? E 17. Mettere giacca. Giacca. Vitamine? Vitamine. Op. Grazie. Siamo pronti, vieni con noi. Lasciamo tutto qui, ci sono le uova, i muffin e del pane tostato. Ah, un banchetto. Beh, così abbiamo la merenda. E anche la cena. Checkpoint. E 18. Perfetto. Cartella in spalla. Cartella. Ma abbastanza perplesso per questo checkpoint continuo, però insomma andiamo avanti. Allora, è il momento di giocare ancora insieme, è il momento di provare a riconoscere il nostro film misterioso da questa seconda traccia. Perché la ragazza ha un blaster e io no? Cosa? Perché io lo so usare. È questo che mi fa paura, dallo a me. Andiamo su Geta. È zona di guerra. E allora qui chiaramente si scateneranno i nostri ascoltatori, la Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, il vostro indirizzo, provate a vincere uno dei due Blu-ray di questo film che comunque sveleremo fra pochi minuti prima di finire la trasmissione. Dobbiamo andare avanti però con i film e dobbiamo parlare di Boston Caccia all'uomo, una sorta di quasi instant movie sull'attentato alla maratona di Boston di qualche anno fa. Mezzo milione di persone assiste alla maratona di Boston. Tommy! Amore! Stai facendo il bravo? Certo. Qui Delta 984, esplosioni multiple, ci serve aiuto! Non sei ferita, vero? No, sto bene, ti prego, sta attento. Questo, cappellino bianco, è lui. Confidiamo nell'aiuto dei cittadini per identificare questi due sospetti. La caccia all'uomo che si scatenò subito dopo gli attentati rudimentali ma molto molto gravi, molto pesanti alla maratona di Boston del 15 aprile 2013, nei quali morirono 3 persone, e proprio 4 anni dopo, proprio nell'anniversario, arriva nelle sale italiane questo film di Peter Berg con Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, alcune delle facce famose del cinema d'azione e del cinema comunque contemporaneo americano, con Peter Berg, dicevo, in regia. Peter Berg, regista sempre piuttosto patriottico nel suo approccio al film, lo è anche in questo caso, anche se si tratta comunque di un regista intelligente, capace di evitare al limite del possibile la retorica, anche se qui, Boris, mi sembra che ciò che manca è un po' di emozione. Cioè, il film è talmente attaccato a quello che è successo che rischia di essere più cronaca che cinema. Beh sì, alla fine l'emozione esplode tutta nel momento in cui sui titoli di coda noi vediamo le foto e gli anni che avevano le vittime, i 3 che muoiono nell'attentato più il poliziotto che perde la vita nella fuga dei due assassini, di questi due fratelli ceceni musulmani che avevano pensato questo folle gesto e che l'avevano messo in pratica. Credo fosse impossibile creare qualcosa di più potente a soli 3 anni da quell'attentato, che colpì moltissimo l'immaginario, perché in un momento comunitario così potente, così forte come la maratona di Boston, che è un evento mondiale, riuscire a penetrare con il terrore all'interno di esso aveva già in sé tutta l'emozione, già purtroppo la realtà, la cronaca aveva tutta l'emozione che si poteva dare. E poi perché Peter Berg, proprio forse per evitare la retorica, decide di raccontare il bostonianismo. Qua non parliamo nemmeno di patriottismo, ma proprio di una città che si fa personaggio. Mark Wahlberg la chiama per nome, facciamoci aiutare da Boston, dice a un certo punto. Probabilmente noi non riusciamo nemmeno a percepire l'emozione di quei momenti, perché non abbiamo probabilmente quel tipo di attaccamento identitario e comunitario a una città e non solo al proprio paese. È interessante quello che stanno facendo Mark Wahlberg e Peter Berg, perché di fatto insieme stanno cercando di raccontare in un cinema civile molto spettacolare la forza degli uomini normali in situazioni eccezionali. Pensate a Deepwater Horizon, in cui appunto c'erano un gruppo di tecnici che per evitare la catastrofe ecologica, per arginarla e per salvare il proprio paese, si spingono al sacrificio estremo. E lo stesso vale qui: noi troviamo un poliziotto che ha avuto un incidente, che fa fatica anche a camminare, gioca contro se stesso, contro le proprie emozioni, contro i propri dolori fisici, per cercare di fare giustizia. È un film in questo senso all'americana, anche molto antico, con una forza che sembra arrivare da prima del 2001, quando l'epopea americana, il sogno americano del singolo che riesce a rimettere le cose a posto, era più credibile rispetto ad adesso, in cui questa guerriglia costante che ha fatto migliaia di morti. Anche lì a Boston morirono 3 persone, ma ne furono ferite più di 250, molti dei quali mutilati. Cerca su più piste narrative di raccontare che dramma fu. Devo dire che in tutte le sue ingenuità alla fine questo film funziona. Certo, non è un capolavoro, ma forse noi in questo momento abbiamo anche il dovere del ricordo per quelle 4 vittime, il cui il più vecchio aveva 33 anni e il più giovane ne aveva solo 7. Questi non sono i nostri uomini, e intanto voi siete lontanissimi dall'identificare i due che cerchiamo davvero. Dobbiamo diffondere quelle foto. Se le diffondiamo non avremo nessun controllo. Se calchiamo la mano potremmo costringere quei due a reagire. Scusate, se posso dire, Boston ancora non è al nostro fianco. È normale, nessuno di solito fa la spia. Ma qui è diverso, perché a Boston, se si tratta di terrorismo, parlano tutti. Sui giornali stanno parlando delle persone sbagliate. Diffondete quelle foto, aspettate e fidatevi. Lasciamo che Boston lavori per noi, ragazzi. E allora a questo punto, mentre Boston si allontana, si avvicina alla viabilità, e torniamo fra poco, perché prima di parlare del cinema da vedere in casa e di risolvere il quesito di oggi, il film misterioso di oggi, dobbiamo raccontarvi l'ultima pellicola in uscita, un film ancora per tutta la famiglia, si intitola Baby Boss. Domenica, ore 14:30, Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, l'ultimo film fra le novità in sala che vogliamo analizzare, fra i 13 usciti in questo weekend, è Baby Boss. Baby Boss è un titolo sicuramente che porta, come dire, tutta la famiglia al cinema. Il film è d'animazione, è un film firmato DreamWorks, che racconta una storia di grande fantasia, ma anche di grande piacevolezza. La storia di un bambino di 7 anni, fino a quel momento figlio unico, la cui vita cambia abbastanza, e questo sappiamo succede a quelli che fino a quel momento sono figli unici, quando in casa irrompe il fratellino neonato, e che viene visto con occhi, come dire, come quantomeno sospettosi da parte di chi c'era già e voleva continuare a godere dei privilegi di chi era arrivato per primo. Detto questo, però, in questo caso la fantasia di Tim comincia a viaggiare e a fare del fratellino una sorta di agente segreto della CIA. Dobbiamo parlare a proposito del Beppe. Beh, Tim. Beh, ma è uscito dal nulla. Non lo conosciamo. Come possiamo fidarci di lui? Guardatelo, è in abito scuro. Lo so, non è carino. Sembra un ometto. Porta la 24 ore. Nessun altro pensa che sia, non so, un po' inquietante. Ogni bambino è diverso, Tim. E ogni bambino è speciale. Si sta prendendo tutta la casa. Credimi, un giorno imparerai a conoscere questo piccolino e gli vorrai bene con tutto il cuore. Esattamente come noi. Boris, è un'operazione questa della DreamWorks che da una parte richiama un pochino il tentativo di stare sui temi di Inside Out, no? Le paure dei bambini, la loro capacità però di risolvere tutto con la fantasia. Dall'altra mi ricorda anche un po' Pets, senza voleva essere offensivo, ma insomma c'è il tema appunto di chi ti entra in casa e ti spodesta dalla tua priorità acquisita. Hai veramente ragione, perché è la prima idea che è venuta anche a me, pensare a Inside Out come ispirazione e Baby Boss come ricerca di risposta, no? A Inside Out, che voleva essere sensibile, che voleva essere profondo. In Baby Boss c'è tutta invece la risposta muscolare a Inside Out, anche politicamente scorretta. Dall'altra parte c'è Pets, non solo perché i cuccioli di cane vengono di fatto citati e vengono visti come un pericolo, ma anche perché c'è tutto quell'aspetto del nuovo entrato che può rubare al protagonista il posto al centro del mondo che si era conquistato. Baby Boss è molto interessante, perché la DreamWorks ha capito che la Pixar è imbattibile sul suo campo, e allora prova ad essere sostanzialmente il lato oscuro della Pixar, a raccontare le storie della Pixar con quella cattiveria, con quella ferocia, sempre ad altezza bambino, che la Pixar non ha il coraggio di utilizzare, utilizzando anche una comicità piuttosto complessa. Vi direte, però, alla fine Baby Boss, che è il racconto di un neonato cattivo, forse esagerato, ma sicuramente molto determinato, che ruba il posto al povero Tim, che è un bravo bambino, un bambino Pixar, un bambino che non farebbe del male a una mosca, è forse un tema troppo adulto per coloro a cui pensiamo sia dedicato il film d'animazione. Il punto è proprio questo: in un cinema sempre più alla ricerca di target, questo film è esattamente cucito addosso ha un pubblico che ha dai 7 ai 12 anni, sostanzialmente quel pubblico che può capire anche tutti gli inside joke che ci sono all'interno di Baby Boss, quel pubblico che capisce quanto è difficile per un primogenito sopportare quell'ondata di affetto e di emotività che arriva per un nuovo arrivato, e quel pubblico che magari si sente trascurato, che in quel momento ha bisogno di tutta l'attenzione, e c'è qualcun altro che gli ruba l'attenzione. In più c'è tutta quell'immaginazione, quella fantasia che si ha solo a quegli anni, perché arriva all'età della ragione ma non è passata l'età della fantasia, dell'invenzione. E la forza del film DreamWorks è dare una plastica visione di questa fantasia, non come Inside Out, che era più intellettuale, ma diretta, anche estrema a suo modo, colorata, portata ad altezze inarrivabili. Pensiamo solo a quel bambino dittatore che va in giro con la 24 ore e si veste come un dirigente d'azienda. La cosa più interessante è che alla fine, in maniera politicamente scorretta, si arriva però al, non dico al lieto fine, ma forse alla fine del film più educativa, cioè al fatto che l'amore non può essere una società per azioni in cui si ha ognuno delle quote, ma di fatto è una complessità e un complesso non frazionabile. Cioè i genitori, e questo lo capirà Tim, amano i bambini allo stesso modo, è solo l'espressione e l'età diverse che li porta ad agire in maniera diversa. E questo è molto interessante, perché la DreamWorks sembrava destinata a un ruolo di eterno secondo rispetto a Pixar, e adesso forse ha capito che può viaggiare parallelamente e anche prenderla un po' in giro. Ed è un esperimento molto interessante, anche perché si rivolge, secondo me, a un pubblico, appunto quelli dai 7 ai 12 anni, che prima veniva un po' trascurato. Quindi davvero molto interessante, molto divertente e anche cattivo il giusto, perché poi ci dobbiamo ricordare che i bambini non sono sempre proprio così buoni. E allora Baby Boss è l'ultima proposta di questa settimana. Io saluto Boris Sollazzo, grazie, ci sentiamo alla prossima. Alla prossima settimana e buon cinema. E noi andiamo avanti con invece il cinema da vedere in casa, cominciando dal farvi riascoltare una clip del nostro gioco di settimana scorsa. Lei è quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Speravo che fosse in grado di dirmi se ci sono stati avvistamenti, tracce e cose così. E allora, si trattava di Animali Fantastici e Dove Trovarli, questo lo avevamo già detto la settimana scorsa, non avevamo detto invece chi erano i vincitori sono tutti e due in Puglia, Andrea Martina di Brindisi e Giovanni De Benedictis di Bari, entrambi riceveranno il Blu-ray di Animali Fantastici che ci facciamo raccontare con tutti i suoi contenuti speciali dagli amici di Film TV, e con noi Giulio San Giorgio, ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, J.K. Rowling è tornata nel mondo incantato di Harry Potter per la prima volta come sceneggiatrice, sfrutta al meglio quello che è uno dei punti di forza della saga di Harry Potter, ovvero quella sensazione, come ha scritto una mia collaboratrice, che ci sia sempre un'altra storia da raccontare dietro l'angolo, una sorta di inedito pezzo di universo da esplorare. E così fa questo Animali Fantastici Dove Trovarli, che diverte veramente come se fossimo tutti degli infanti e lascia il desiderio di vedere i seguiti, e ce ne dovrebbero essere addirittura 4. Il riversamento è ottimo, un'ora di contenuti extra con scene eliminate, approfondimenti su personaggi e soprattutto ovviamente sugli animali fantastici. Questo per quel che concerne allora il game della scorsa settimana, un paio di situazioni interessanti nei palinsesti televisivi della prossima. Martedì 25 aprile, giorno di festa, alle 23:20 su Iris c'è Sfida nell'Alta Sierra di Sam Peckinpah. Esatto, sì, secondo film di Sam Peckinpah, autunnale, antiretorico, disilluso e crepuscolare, tanto che poi crepuscolare diventa una sorta di aggettivo sottogenere per il western. È un film attraversato da vecchie volpi come Randolph Scott e Joel McCrea, che fino a quel momento avevano osservato dalle retrovie il passaggio degli eroi del western classico alla John Wayne. Sam Peckinpah non amava i produttori, loro si divertivano a tagliare i film e qui manca addirittura mezz'ora di film. Ed è un film in cui l'epopea del grande West è finita, ne restano i brandelli e i rimpianti, e comunque un grandissimo film. Scivoliamo a venerdì 28 aprile, dove su Rai 3 alle 2:15 di notte c'è Follia e Amore. Sì, siamo a Yunnan, nella Cina meridionale, e vediamo la quotidianità fatta di miseria, abbruttimento, di uomini reclusi in un piano totalmente isolato di un ospedale psichiatrico. Il film è di 227 minuti e sono 227 minuti di esposizione dell'occhio al degrado dell'uomo in una struttura manicomiale che è concentrazionaria, repressiva, dove vediamo delle persone veramente disperate di una Cina marginale che in altri luoghi fa moderna, compete, vince, arricchisce e qui soffre. Wang Bing è uno dei giganti del cinema d'oggi, la coscienza critica e resistenza di un paese che lo ostacola continuamente. Qui pedina, rincorre e trema con gli ultimi diseredati e chiede a chi guarda di guardare sul serio. È un film straordinario, veramente contro il consumo dell'immagine, contro il facile sdegno e contro l'egoismo di chi ama soffrire part time per il dolore degli altri. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, e allora non ci resta che annunciarvi il film misterioso di oggi. Si trattava di Rogue One, lo spin-off della saga di Star Wars, saga che tornerà peraltro il 13 dicembre di quest'anno con il capitolo 8, del quale è stato diffuso il trailer proprio in questi giorni. E allora Rogue One era il nostro film di oggi, vincitori la prossima settimana. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.